E quindi bentrovate a tutte e tutti, siete all'ascolto di Atti e Misfatti. Volevamo iniziare questa agenda di oggi con un ricordo di Nicole Clomathier, e abbiamo anche Valeria Ribeiro Corazzaz al telefono per aiutarci in questo ricordo. Ciao! Ciao a tutte, ciao! Siamo presi un po' a caldo così per ricordare Nicole Clomathier e il suo grande lavoro di antropologa e di sociologa. E voi avete curato nell'ultimo Quaderno Viola, Quaderno Non si nasce donna, e tu avevi curato la parte a partire di un suo testo. Se ne vuoi parlare un po' del testo, del contatto con lei o... Certo. Dunque, beh, innanzitutto per ricordare Nicole Clomathier penso che appunto sia molto utile ricordare questo testo Non si nasce donna, perché è il primo volume che esce in Italia in cui sono presentate insieme in forma organica e molto agile e intelligente tutte le femministe materialiste francese. Quindi per ricordare Nicole noi dobbiamo ricordare tutto un contesto importante, perché il suo lavoro si inserisce appunto in questo lavoro più collettivo. Nicole Clomathier era un'antropologa, un'etnologa, quindi il suo lavoro è molto importante non solo per il femminismo ma anche per l'antropologia. Lo dico con particolare appunto attenzione proprio in quanto antropologa, e quindi il suo lavoro è un lavoro insomma che ha saputo mettere in discussione la costruzione delle categorie di sesso e di genere, la costruzione in particolare della categoria di genere, insomma, che invece in quegli anni poi veniva ampiamente utilizzata e impiegata, perché veniva introdotta dall'ambito anglosassone con appunto l'introduzione della parola gender. Quindi Nicole Claude ha fatto un lavoro incredibile di grande sapienza nel leggere i materiali. Era una femminista e una antropologa e una professoressa incredibilmente affascinante. Ecco, io voglio anche ricordare questo suo aspetto umano. Era molto simpatica, era ironica a lezione, nelle sue conferenze era travolgente, e questo penso che sia un bel modo anche di ricordarla, non solo appunto per il suo lavoro che per certi tratti può essere anche molto impegnativo, molto intenso. Ecco, una lettura che non lascia niente non nominato. Quindi leggere Nicole Clomathier significa molto mettersi in discussione, significa esporsi a una vera analisi dei rapporti sociali tra i sessi, e quindi penso che sia una lettura anche molto impegnativa per ciascuna di noi. Grazie. Non so se c'è qualche cosa in particolare che vogliamo ricordare insieme. E insomma, io sono ben felice appunto di anche rispondere ai vostri stimoli. Sì, io per esempio vorrei sapere com'è andata la traduzione. Tu hai avuto dei contatti con lei? Allora, la traduzione del testo che è presente nel Non si nasce donna non è stata fatta a cura mia, quindi io mi sono occupata dell'introduzione, diciamo, di quella sezione che è pensata per presentare il suo lavoro ad un pubblico italiano, ad un pubblico non specializzato, un pubblico diciamo di donne femministe, lesbiche che sono interessate a questa figura, in generale appunto al femminismo materialista francese. Io personalmente l'ho conosciuta perché sono andata a studiare tanti anni fa a Parigi proprio per seguire i suoi corsi, e poi l'ho conosciuta anche tramite Paola Tabet, con cui avevo già contatti in Italia, e quindi appunto Paola Tabet la conosceva perché fa parte appunto di questo gruppo, quindi anche tramite insomma questo collegamento è stato diciamo un incontro che ho fatto sia come studentessa sia come femminista. Sì. E mi ricordo appunto una persona molto attenta, molto seria e molto dedicata appunto al suo lavoro e anche nel seguire i lavori delle studentesse che si interessavano a lei, che appunto la seguivano. Mm-hmm. Guarda, più in là faremo comunque una trasmissione molto dedicata a tutti i suoi lavori. Io per esempio ho proprio difficoltà a mettere a fuoco delle cose che mi sono state importanti al momento in cui l'ho letto e conosciuta lei. È come se comunque ho letto delle cose che comunque mi rendeva chiara una chiave di lettura della società in cui vivevo, mi rendeva chiara il mio lesbismo, mi rendeva chiara molte cose. È una cosa, cioè, che per me comunque è stata molto profonda e che sento che fa parte di me senza neanche poter veramente dire esattamente che cosa. Cioè, parlavo prima del testo, quando cedere non significa consentire. Tutto un lavoro sulla violenza che subiscono le donne, e con questa sottile differenza che c'è tra non è perché dico qualche volta di sì che comunque consento alla violenza che agita su di me, per esempio. È una cosa che dico così al volo, perché c'è, cioè, sì, questo sicuramente è un lavoro che anch'io sono contenta di ricordare oggi. Perché è vero appunto che lei in quel testo ha saputo spiegare esattamente quali sono le forme di resistenza delle donne alla violenza, pur stando purtroppo in molte volte in situazioni di violenza di vario tipo, no? Psicologica, fisica, e quindi penso che sia i suoi testi sono purtroppo molto attuali, anche se appunto sono stati scritti negli anni 70-80, sono di grandissima attualità. Questo in particolare credo che sia un testo illuminante sulla violenza maschile contro le donne, e quindi penso che sia anche un bel modo di ricordarla quando cedere non è a consentire. Vabbè, concludiamo adesso. Comunque avremo veramente l'occasione di andare più approfondito nei suoi testi e di dedicare molto più tempo a lei e a te. Volentieri, un abbraccio a tutte e buon lavoro. Grazie a te. Ciao, a presto. Ciao.